ti faccio un invito. Prova, riflette sull'infinito. Ci puoi pensare, ti puoi testar dire. L'infinito è una cosa che non si può capire. Dai, andrò a un'altra festa. Peppiamo un trip e rovinammi la testa. E mi ricordo quanto ho rosicato la prima volta che m'hanno detto: stai bruciato. Ora ti dico come sono messo. Ho le allucinazioni, non sono più lo stesso. Se passa una macchina, vedo la scia. Non te sembra vero, ma non è fantasia. Questa era vera, pure se è follia. C'è sta gente con la testa peggio della mia. La notte delle streghe, prima volta che ho pippato. Sarà per quello che la merce m'ha stregato. Come One Piece, vado all'arrembaggio. E che yes, click, è il mio equipaggio. Se intromettemo nella scena romana, se ci sgarrate fammi figli de puttana. A chi se spigne solo un sacco de calle. ORB è il principe de prima valle. È così, io sono un principino. La gente mi conosce come Alfredino. Come quello che nel pozzo chiedeva Coca-Cola. Io chiedo solo coca in una parola. Per recuperare senso de lucidità. Sei giorni su sette te sta in trippa. È così che va, un altro tiro, un altro schioppo. Un'altra canna nella testa, nuovo intoppo. Te sei drogato, mo s'affari tuoi. Te becchi presa male anche se non vuoi.